Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie. E benvenuti alla ultima delle cinque lezioni di jazz che l'Auditorium ha organizzato quest'anno con il sottoscritto. Come sapete, queste lezioni hanno avuto tagli differenti, alcune di tipo più storico, altre di tipo più stilistico, qualcuna di tipo più analitico, come la prima che abbiamo fatto su Kind of Blue, era un viaggio all'interno del disco Kind of Blue. Invece oggi chiudiamo con un'altra conferenza di tipo più analitico, di guida all'ascolto vera e propria, che è dedicata ad un capolavoro del 1940 di Duke Ellington e della sua orchestra, Coco. In questa oretta che passeremo insieme, proveremo a scendere proprio nelle pieghe più profonde, del brano e cercheremo anche di dare un senso a questo strano titolo, alla musica, ai suoni, di questo lavoro, che è un lavoro che, Duke Ellington incise, lo vedremo nel marzo del 1940, mi chiedo scusa, ma sono ancora un po' malaticcio, nel marzo del 1940 per la Victor, in un momento che è probabilmente considerato, concordemente dalla critica, il momento più alto della creatività di Duke Ellington. Ellington nel 1940 ha 41 anni, è nel pieno delle sue forze, ha con sé, lo vedremo, un'orchestra di livello formidabile che poi non ha più avuto di quella portata, con musicisti come Ben Webster, Cootie Williams, Jimmy Blanton, la grande sezione tromboni di cui poi parleremo, Sonny Greer, la batteria, eccetera, è nel pieno anche di una crescita professionale, perché sono gli anni in cui Ellington ha cambiato management, ha cambiato casa discografica, è passato dalla Columbia alla Victor, si trova, come dire, sull'onda di una spinta anche promozionale che lo porta all'attenzione, di tutto il paese e in realtà si stava già guadagnando anche una notevole fama in Europa, dove aveva suonato prima in Inghilterra e poi in una memorabile tournée nel nord Europa, tra la Danimarca e insomma i paesi nordici, Svezia, alla fine intorno al 1939, quindi anche in Europa stava guadagnando una grande fama. Ora, per entrare, diciamo, nel nostro capolavoro, direi, visto che poi lo ascolteremo a pezzetti, cercheremo di entrare nei singoli dettagli, di capire le ragioni, le origini di tanti aspetti di questo brano che dura neanche 3 minuti, direi, anzitutto di ascoltarcelo, per sentire come fa. Allora. No, scusate, ecco, prima di ascoltarlo, mentre lo ascoltiamo, siccome lo ascolteremo anche a frammenti. Per ascoltarlo intero vi voglio far vedere questo diagramma, intanto così lo seguiamo, che è stato fatto da Gunther Schuller, che ci mostra come il pezzo è costruito a, come dire, a terrazze. Comincia con una dinamica abbastanza diciamo, intensa, poi pian piano sale, sale, sale, sale, raggiunge un culmine e alla fine riprende l'idea che c'è all'inizio, Carney con i tre tromboni. Tutti questi dettagli, Nenton, strappati, ottoni, eccetera, li vedremo dopo. Quello che voglio farvi vedere mentre ascoltiamo il brano è come il pezzo, funziona come una specie di progressivo crescendo. C'è ovviamente il solito problema che io ho con i miei file, eccolo qua. Perché non parte? Allora, scusate, lo facciamo ripartire. Ci siamo. Ah. F. La coda, come l'inizio. Questo è il pezzo e noi proveremo adesso a capire la sua struttura, anche a entrare proprio nel tessuto fine della scrittura di Duke Ellington. È un pezzo che avete sentito dal suono aspro, vigoroso, molto intenso, che è sostanzialmente un blues. Non sembra, ma non è altro che un blues in minore. Cosa vuol dire? Che in genere il blues ha un giro di accordi maggiore. I blues in tonalità minore, come Co-Co, che invece è un blues in tonalità minore, sono più rari e in genere nelle storie del jazz si afferma che i blues in minore si sono affermati a partire dagli anni 50. In realtà i blues in minore, in tonalità minore, sì, sono più rari, ma esistono in realtà fin dagli inizi del Novecento. E questo pezzo di Duke Ellington è un esempio non consueto di blues in tonalità minore, in particolare in Mi bemolle minore. Questi sono gli accordi di base. Questi sono, così grossolanamente, sono gli accordi di base. Quindi invece di essere maggiore, minore. Il che rende tutto molto più cupo, più aspro e toglie al giro, alla musica che Ellington ha scritto, toglie il carattere più blues nel senso tradizionale, no? Più cantabile, più malinconico, più sfumato. Invece questo suono è molto più compatto, con questi accordi molto densi, e consente a Ellington appunto di sfuggire a tutti i cliché tradizionali del blues. Ora, in realtà, il blues è tutto nella parte centrale, perché l'introduzione e la coda, invece, non sono un blues, sono hanno una struttura un po' particolare, cioè c'è il sax baritono di Harry Carney che fa una nota ripetuta, anzi la fa qui sotto, che se ci pensate bene è il ritmo della quinta della quinta di Beethoven. Ok? Su questo motivo di quattro note, ta ta ta ta, ci sono tre tromboni che suonano degli accordi compatti. Questo è l'inizio, riascoltiamolo. La prima cosa inusuale è che a iniziare la frase ci sono i timpani di Sonny Greer. Sonny Greer era il batterista dell'orchestra di Duke Ellington. Come vedete, veniva da Washington, come lo stesso Ellington, erano amici d'infanzia praticamente, hanno cominciato a suonare insieme da ragazzi. E quando poi l'orchestra è diventata importante, comunque Greer è rimasto dentro l'orchestra. Definirlo batterista è un po' riduttivo, perché se vedete l'attrezzatura che si portava dietro, e questa è solo una parte in questa fotografia, capite che era un percussionista in senso quasi sinfonico, in senso pieno, campane tubolari, gong, woodblocks e i timpani sinfonici che vedete lì sulla destra, che sono quelli che si sentono proprio all'inizio di Coco, che fanno il ritmo prima ancora che entri il sassofono a fare. Già i timpani fanno fanno questo piccolo suono, appunto. Avete sentito? Il perché il pezzo cominci con dei timpani cercheremo di spiegarcelo più avanti, però intanto prendiamo atto di questo. Questo tipo di sonorità, come potete immaginare, è raro nel jazz, no? Il batterista suona la batteria, introdurre i timpani sinfonici è una cosa piuttosto inconsueta. Il secondo suono particolare che sentiamo è quello del sax baritono di Harry Carney. Harry Carney era entrato nell'orchestra alla fine degli anni 20, che aveva nel 27, aveva 17 anni, ed è stato il primo vero maestro di sax baritono. Qualcuno di voi si ricorderà, abbiamo fatto una lezione su Coleman Hawkins e Lester Young, abbiamo raccontato come nel corso degli anni 20 Coleman Hawkins abbia inventato il sax tenore. Bene, Harry Carney ha inventato il sax baritono, uno strumento dalla estensione più grave del sax tenore, e lo ha inventato Carney con questo suono cavernoso, potente, tagliente anche. Qui, in questa registrazione del 1940, non è che si senta benissimo, ma Carney in realtà aveva un suono gigantesco che era il fondamento dell'orchestra di Duke Ellington. Tra l'altro i due umanamente, Ellington e Carney, erano molto legati. Lo stesso Carney morirà praticamente 6 mesi dopo Duke Ellington e gli è stato vicino tutta la vita, è entrato a 17 anni nell'orchestra nel 1927 e non ha mai lasciato l'orchestra. Ha lavorato per quasi 50 anni all'interno dell'orchestra. Perché è importante il sax baritono di Carney? Perché oggi qualsiasi big band ha un sax baritono, no? Uno va a sentire un'orchestra di jazz e c'è, in genere, lì sulla destra, il sax baritono che suona, nella sezione ance. In realtà, una caratteristica dell'orchestra di Ellington è che per molto tempo essa è stata l'unica e poi una delle pochissime ad avere il sax baritono, perché le orchestre da ballo e le orchestre di jazz degli anni 20 e 30 avevano in genere 3 e poi negli anni 30 4 sassofoni, che erano 2 sax contralti e un sax tenore. Il baritono non c'era, a parte perché nessuno lo suonava. Carney è stato il primo a prendere questo strumento e a dargli una personalità. Ma poi perché c'era un altro motivo. Il sax, la sezione sax, lo scrivono perfino i manuali di arrangiamento degli anni 20 e 30, era nelle orchestre swing l'equivalente della sezione archi in un'orchestra da ballo invece con gli archi, cioè era la sezione che doveva fare la melodia, la parte dolce, la parte morbida della melodia. Se tu ci metti un sax baritono, invece, che avete sentito questo suono rugoso, molto possente, questa dolcezza se ne va. Infatti, che so, prendete l'orchestra di Benny Goodman. L'orchestra di Benny Goodman negli anni 30 aveva 4 sassofoni, 2 contralti e 2 tenori. Tutte le orchestre di quegli anni avevano un suono dolce nei sassofoni. Ellington invece, che mirava a cercare dei suoni inconsueti, dei suoni che non si ascoltavano facilmente, che non erano usuali, sceglie fin dall'inizio di usare il sax baritono. E infatti poi negli anni 30 sono pochissime le orchestre che lo adottano, e quelle che lo adottano lo fanno per imitare Ellington. Per esempio l'orchestra di Jimmy Lunsford, che occasionalmente esibiva un sax baritono. Ellington invece lo faceva sempre, c'era sempre il sax baritono. Allora, cosa voglio dire? Che quando nel 1940, mettiamoci nella macchina del tempo, proviamo ad ascoltare questo disco con le orecchie di un contemporaneo di Ellington, di un ascoltatore che nell'aprile del 40 compra questo disco. Ascoltare il sax baritono nudo e crudo, che fa quelle 3-4 note, è una cosa che non appartiene all'esperienza consueta dell'ascolto, tantomeno dell'ascolto del jazz, perché nelle orchestre sinfoniche il sax baritono non c'è, nelle orchestre da ballo non c'è, Nelle orchestre jazz è rarissimo, Ellington addirittura ce lo fa sentire come un suono isolato. E questo, ripeto, non è assolutamente consueto. Questo vuol dire mettere l'ascoltatore davanti a un'esperienza e dire: oddio, che cos'è questo? Quello che a noi oggi sembra ovvio, in quel momento era la violazione di una regola. Per giunta questo suono nudo, diciamo, del sax baritono che fa da fondamento, dopo i timpani, fa da fondamento a quello che succede sopra. E cosa succede sopra? Abbiamo sentito che ci sono quei tre tromboni. E qui entriamo in un altro mondo ancora, i tre tromboni. Cioè, Lawrence Brown, Juan Tizol e Joe Nanton, detto Tricky Sam. Anche qui dobbiamo metterci nelle orecchie degli ascoltatori dell'epoca. Qui dobbiamo fare un lavoro un po' più accurato. Punto numero uno. Tutte le orchestre degli anni 20 avevano un solo trombone, le orchestre di jazz. Poi, nel corso degli anni, fine anni 20, primi anni 30, le orchestre di jazz fino agli anni 40 hanno avuto due tromboni e tre trombe. Per esempio, l'orchestra di Benny Goodman aveva tre trombe e due tromboni. Voi direte: che differenza fa averne due o tre? Fa una grossa differenza, perché se io ho solo due tromboni, allora mettiamo, se io ho tre trombe, con tre trombe posso fare un accordo. L'accordo è un insieme di note, è un insieme di almeno tre note, almeno tre, perché due, per esempio con due tromboni, non ottengo un accordo, ottengo cose di questo genere. Sono, come dire, sonorità aperte, ambigue. Ci puoi fare qualsiasi cosa, è una tecnica, voglio dire, puoi fare delle cose molto flessibili, ma non hai un suono di un'armonia completa. Per avere un'armonia completa devi avere tre suoni. Allora, le orchestre dell'epoca avevano tre trombe e magari due tromboni sotto. Oppure, questi erano i tromboni e queste le trombe. Quello che voglio dirvi è che se voi volete l'armonia di, per esempio, questo accordo qui, con le trombe lo fate. Con i tromboni no. Ci manca qualcosa, ci manca questo, per esempio. Questo è troppo vuoto, è troppo ambiguo. Quindi i tromboni, per farla breve, erano ausiliari alle trombe. Rafforzavano il suono, ma non aggiungevano niente. Non potevano essere autonomi. Nel 1932 Ellington, sul suggerimento del suo manager Irving Mills, notate, aggiunge a Juan Tizol e Tricky Sam Nanton Lawrence Brown. È unica orchestra al mondo a tre tromboni. È l'unica orchestra in cui l'ascoltatore, quando va a sentire Ellington, sente i tromboni da soli, che fanno degli accordi, che possono fare delle frasi complete, dei suoni autosufficienti, degli accordi autosufficienti, cosa che nessun'altra orchestra poteva fare. Tra l'altro, poi, pian piano, tutte le altre orchestre si sono adeguate al suono di Ellington. Nel corso degli anni 30 sono passate a tre tromboni, ma rapidamente si è imposto il modello di quattro tromboni. Ora, pensate, tutte le orchestre jazz oggi hanno quattro tromboni. L'orchestra di Ellington non si è mai schiodata dai tre tromboni e quel suono a tre è diventato un suono caratteristico di Ellington. Tant'è che molte volte, quando ci sono, fate molta attenzione, quando andrete a sentire un concerto omaggio a Duke Ellington, che so, i concerti sacri, e vedete quattro tromboni, sappiate che non siamo molto filologici lì. Perché, guardate, è talmente standard il modello dei quattro tromboni che oggi, se voi comprate gli spartiti di Ellington, spesso viene aggiunto un quarto trombone per adeguarsi allo standard corrente. Ma il suono ellingtoniano è a tre. Ed è un suono molto particolare, perché i due trombonisti a sinistra e a destra, Lawrence Brown e Joe Nanton, suonano il trombone a tiro. Il trombonista al centro, su cui torneremo tra breve, suona invece il trombone a pistoni. Juan Tizol era un trombonista di origine portoricana, suo padre era un direttore di banda di Porto Rico immigrato negli Stati Uniti, e nella banda è più facile trovare il trombone a pistoni che il trombone a tiro. Quindi lui suonava il trombone a pistoni, che ha un suono più morbido, meno potente del trombone a tiro, e diciamo ha delle possibilità di combinazioni delle note più flessibili del trombone a tiro. L'altra cosa affascinante è che Ellington scriveva per questi tre tromboni stando al pianoforte. L'inizio che avete sentito è un inizio da pianista, una nota al basso e gli accordi alla destra. Cioè, lo risuono perché c'è il podcast, poi la gente dice che non so suonare il pianoforte, e sbaglio. Allora, sentite, a blocchi. Cioè, proprio la mano scivola con questi accordi, cromaticamente, blocco dopo blocco. E questo è un movimento che farebbe un pianista. Ellington spesso scrive per un'orchestra intera come un pianista, cioè fa fare ai tromboni quello che fa la mano di un pianista. E il risultato, appunto, è questo che avete sentito. Ora, nel momento in cui, torno un attimo indietro, vi faccio rivedere il viso di perfetto, abbiamo sentito i tre tromboni, ora entriamo quando comincia il blues. La prima frase che sentite, che è questa qui, viene ripetuta continuamente. Questa frase è il motivo generatore di tutto il pezzo. Tutto il pezzo è costruito su questa idea. A suonarla, che strumento è? È proprio il trombone a pistoni di Juanti Zol, con il suo suono morbido e con i sassofoni che gli rispondono. Su questo effetto della risposta torneremo tra poco. Ok? Ora, questo motivo rimane fisso mentre l'armonia sottocambia. Vi faccio un esempio. Sentite alla sinistra. Poi cambia. La sinistra cambia, ma la melodia sopra non cambia. Avete anche sentito che i sassofoni rispondono. Ora è interessante che quando l'armonia cambia, cioè si va qui, i sassofoni salgono. E quando scende? Ok? Quindi voi avete una combinazione tra la frase di base che non cambia e la risposta che invece sale, segue l'armonia. L'effetto di botta e risposta è caratteristico, come sapete, della musica africana, e dalla musica africana è entrato nel jazz e nella musica occidentale. Lo trovate nel gospel, per esempio. Quando c'è il solista che canta e il coro che risponde, è un effetto africano che, secondo me, Ellington qui ha voluto riprodurre proprio come se fosse un solista che canta, per esempio una voce di tenore a cui il trombone a pistoni è molto vicino, e il coro dei sassofoni, qui non c'è un coro vero, ma i sassofoni fanno la parte del coro. Ora, questo effetto di botta e risposta che qualcuno sale, qualcuno scende, ve lo riassumo così. Cioè, voi avete il trombone a pistoni che fa la frase A, sempre uguale. No? E i sassofoni X. Poi di nuovo A. E i sassofoni. Quando c'è la frase 2, in cui l'armonia sale, sempre A. Ma i sassofoni si spostano. Ok? Questa è una semplice frase blues, ma vedete quanto è complessa, ve la faccio ascoltare. Perché non si sente? X A X frase 2 Y A A primo segna A X chiaro? È una banalità, è un riff, nient'altro che un riff, cioè una frase ripetuta più volte. Ma vedete come in queste 12 misure del blues Ellington è così sofisticato da giocare con questi effetti di qualcuno che rimane fermo, qualcuno che si sposta. Il solista che canta, canta sempre la stessa cosa, il coro che risponde invece si muove. Già in questa esposizione notiamo un'attenzione all'incastro, al dettaglio e a un rapporto, come posso dire, tra fissità, ripetizione e variazione. Qualcosa è sempre uguale, qualcosa invece cambia. Che è una cosa che è alla base di tutto il pezzo. Dopodiché comincia l'assolo di Joe Tricky Sam Nanton, cioè l'altro dei tre trombonisti, quello che era nella foto di gruppo a destra. Chi è Joe Nanton? È una delle figure più importanti della storia del trombone, in assoluto. Perché Joe Nanton, detto Tricky Sam, cioè colui che conosce tutti i trucchi, era lo specialista, è stato il più grande specialista del trombone growl e wah-wah. Una tecnica che prima del jazz e prima, diciamo, prima del jazz non esisteva. In cosa consiste? Consiste nell'usare, come vedete, davanti alla campana dello strumento, una specie di stura lavandini, originariamente era proprio uno stura lavandini, che ti dà un effetto che è wah-wah-wah quando lo apri. In realtà Nanton era pazzesco, in alcune circostanze era capace, non chiedetemi come, di fare anche ya, ya, ya, non solo ua, ma anche ia, e anche, quindi praticamente tutti i tipi di vocali. Contemporaneamente si può ottenere un effetto growl, che vuol dire ringhio, cantando e gorgogliando così con la gola dentro lo strumento, in modo da dare l'impressione che lo strumento letteralmente parli. Questa idea che lo strumento parli è un'idea estranea al mondo della musica occidentale. Quando noi ascoltiamo un trombone, un violino, una tromba, un clarinetto, vai a sentire il concerto per clarinetto di Mozart, non ti aspetti che il clarinetto imiti la voce umana. Invece il jazz porta nella musica occidentale proprio questa idea che lo strumento scambia la sua funzione con la voce. La voce tende a imitare lo strumento, pensate a Louis Armstrong, lo strumento tende a imitare la voce. Prima di John Anton era stato a perfezionare questa tecnica, era stato James Bubber Miley, un trombettista sfortunato che suonava con Anton nell'orchestra di Duke Ellington alla fine degli anni 20, che è morto giovanissimo per tubercolosi nei primi anni 30. Anton ha imparato tutti i trucchi da Miley e li ha portati sul trombone, li ha ulteriormente sviluppati. Qui vediamo un elemento di, come posso dire, di estetica africana che entra nella musica occidentale. John Anton suona due ritornelli di blues che ascoltiamo. Fate anche attenzione perché tra poco ci ragioniamo a quello che succede dietro il trombone di Anton. Il parlante. Ya ya. Yeah. Impressionante, vero? Questa voce umana sembra qualcuno che si alza e canta un lamento, ma lo canta proprio, lo canta, perché Nenton usa lo strumento come una voce. Ora, in qualsiasi manuale di arrangiamento c'è scritto che se il solista è uno strumento ad ottone, per esempio il trombone, l'accompagnamento deve essere fatto dagli strumenti che fanno da contrasto, per esempio i sassofoni, le ance. Viceversa, se ci fosse un sassofono solista, dietro ci mettiamo gli ottoni, trombe e tromboni. Invece qui Ellington cosa fa? Ha un trombone che fa wah wah e sotto mette le tre trombe e due tromboni che rimangono a fare wah wah. Cioè raddoppia dietro il trombone l'effetto, lo moltiplica e lo ingigantisce. Il risultato qual è? È che il suono aspro del trombone non viene accompagnato da un tappeto pulito delle ance, come succede di solito, ma viene ulteriormente, scusate il verbo non è corretto, sporcato, deformato da un'idea negativa, arricchito, modificato da quel suono wah wah suonato da tutti i tromboni, da tutti gli ottoni, scusate. Ve lo faccio risentire. Lo fermo un attimo. Non c'è solo però U-A-O-A dietro il trombone di Nenton, c'è anche il motivo generatore. I sassofoni all'unisono sotto, ci avete fatto caso, fanno, che è una variazione del tema del trombone, che era prima faceva. Vi ricordate? Ora fanno. E lo fanno continuamente, cioè c'è una variazione del tema che sta accompagnando il trombone di Nenton e... Lo faccio risentire dall'inizio. Tra l'altro, avete sentito, sono tre livelli, il trombone che fa il suo assolo cantato, vocalizzato, gli ottoni fanno secco e aspro e sotto la linea del motivo generatore d'oro viva, come un coro a bocca chiusa, para viva, che accompagna. Avrete notato che l'accompagnamento della sezione ritmica tum, tum, tum, tum, è quasi da marcia, non è uno swing ballabile, ma è tam, tam, tam, tam, tam. Sonny Greer, Jimmy Blanton, Fred Guy e lo stesso Ellington al piano suonano in maniera molto, come se fosse appunto una marcia o forse una danza di altro tipo. L'atmosfera si sta facendo sempre più aspra. Questa asprezza raggiunge uno dei suoi culmini nel ritornello successivo, quando Duke Ellington entra su questa base, che in realtà lo sentirete parabara, parabara. Che cosa succede? Vi faccio sentire subito il passaggio. Abbiamo il motivo di generatore che prima era più... con della pausa e delle pause in mezzo. Ora invece si fa più incalzante, ne è una variante. Cioè non c'è non c'è spazio per le pause. La cosa diventa sempre più incalzante ed è una variante della variante del tema originale. E Duke Ellington al pianoforte introduce degli accordi completamente dissonanti. E il pianoforte cosa suona? Suona degli arpeggi dissonanti che sono questa cosa qui, più questa, che urto, eh? Lui va su e giù, su questa. Questo è l'accordo di base del blues e lui fa su e giù questa cosa. È una sorta di effetto bitonale, come se ci fossero due tonalità che si scontrano, che collidono. L'effetto è proprio di voler tenere uno scontro fra suoni, una maggiore asprezza. Mentre c'è il motivo sopra, questo più questo. E il risultato è questo. Man mano che si va avanti nel corso del pezzo, sentirete che questi urti armonici diventano via via sempre più densi, sempre più aspri. E questo passaggio del pianoforte che suona questa cosa completamente dissonante contro l'accordo sotto non ha precedenti nella storia del jazz. È un momento di collisione fra due mondi che il jazz, che musica in quegli anni era musica da ballo, sofisticatissima, molto complessa, ma che non doveva suonare troppo aspra ed estrema all'orecchio, non aveva ancora raggiunto. Ellington entra in un territorio che in effetti aveva già cominciato ad esplorare negli anni precedenti, ma che qui, come dire, occupa con grande sicurezza, esplora un territorio di linguaggio, di trasformazione dell'armonia, che non ha precedenti nella storia ed esula dall'idea di musica da ballo, di musica gradevole, di swing, di piacevolezza. Qui siamo in un regno diverso, siamo in un regno, lo sentite, anche poco occidentale. C'è da chiedersi poi perché. Andiamo avanti. Il ritornello successivo ha una nuova variazione. Parabara. Questa variazione ora è presa dalle trombe. Parabara. E ci sono i sassofoni che rispondono, un po' come all'inizio, quando il trombone faceva il suo tema e i sax rispondevano. Ora di nuovo sono le trombe sordinate, con questo suono nasale, aspro, e come una piccola parte del coro, a cui un altro elemento del coro, più massiccio, risponde. Ed è la parte delle trombe ancora una variante della variante della variante del tema originale. Ora, la risposta dei sax ha un suono strano, acuto, stridente, che non suona come una sezione sassofoni normale. Che succede? È che Ellington qui adotta un tipo di scrittura che stava introducendo in quegli anni, insieme al suo braccio destro appena entrato nell'orchestra, Billy Strayhorn, un altro compositore che sarà importante nella sua orchestra. Per capire questo meccanismo dovete pensare a un'altra anomalia fonica dell'orchestra di Ellington. Come vi ho detto prima, le orchestre da ballo avevano quattro sax, due contralti e due tenori. L'orchestra di Ellington non solo aveva il sax baritono, ma c'era un'altra novità appena arrivata nel 40, poche settimane prima di questo disco. Un quinto sassofonista. Prima Ellington aveva due sax alti, un sax tenore, un sax baritono. Ora c'ha un nuovo sax tenore, che è Ben Webster, gigante del jazz, che qui non si ascolta in assolo, è solo dentro l'orchestra. Noi sappiamo che è arrivato all'ultimo momento, perché nei manoscritti di Ellington c'è la parte per quattro sax e ce n'è un quinto aggiunto a matita. Vuol dire che Webster era appena arrivato e per fargli suonare una parte, Ellington aggiunge tra l'altro una parte molto dissonante cercando uno spazio per questo quinto sassofono. Oggi è normale che le orchestre jazz abbiano cinque sax. Tutte le orchestre jazz hanno cinque sax. Nel 1940 ce n'era solo una che aveva cinque sax ed era l'orchestra di Ellington. Quindi all'orecchio di un ascoltatore del 40 questa cosa suona come una cosa assurda, strana, stranissima, un suono pieno, curioso. Non solo, questi cinque sax vengono utilizzati in questo passaggio in un modo particolare. Uno di questi sax suona il clarinetto, quindi abbiamo clarinetto, sax alto, sax tenore, sax baritono. E il sax baritono, voi dovete pensare che gli accordi sono fatti da quattro note in questo caso, il clarinetto, i due alti e il tenore. Il sax baritono suona la melodia del clarinetto, però due ottave sotto, come se l'accordo fosse così. E il baritono suona la stessa nota più sotto. Quindi, che succede? Che lo strumento più acuto, il clarinetto, c'ha la melodia. Lo strumento più grave, il baritono, c'ha la melodia pure lui. Invece di fare il fondamento dell'accordo, c'ha la melodia. E questo rende molto dissonante l'effetto. In parole povere, tutto questo sound è un sound unico, inventato da Ellington, che poi, tra l'altro, sarà ripreso anche da Glenn Miller. Avete presente Moonlight Serenade? Con quel suono morbido, è fatto in questo modo, copiato da Miller, da Duke Ellington, con il clarinetto in cima e gli altri sax sotto, qui che suonano molto sull'acuto, quindi suona tutto molto, molto stridente. E il clarinetto. C'è un dettaglio che voglio farvi sentire in questa frase. Avete sentito le trombe e i sax, i cinque ance col clarinetto in cima che rispondono. Ma quando c'è la risposta dei sax, se ci fate caso, rispondono anche i tromboni. Cioè i sax e i tromboni stanno insieme, i famosi tre tromboni che abbiamo visto prima. Rispondono insieme. Ma alla fine della frase, i tromboni, sapete cosa fanno? Fanno una frase che è tipo questa. Cioè l'introduzione a blocchi pianistici, che ritorna alla fine di questa frase. Fateci caso. Ecco. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Riascoltatelo. Attenzione, si sentono appena pappa da da da da da da. Avete sentito? Da da da da da da da da. Quella cosa dei tre tromboni che rientra è come se Ellington avesse preso un pezzetto dell'introduzione e l'avesse reinfilato nella parte finale della frase. A questo punto, crescendo, crescendo, crescendo, l'orchestra riprende parabara, sempre il motivo iniziale, però lo riprende, sentirete, a piramide. Parabara, parabara, parabara. C'è proprio un effetto di crescendo a piramide in cui tromboni, sax, trombe si inseguono creando una specie di scalata che arriva a un culmine. La scalata è fatta sempre col motivo generatore di queste quattro note. Ellington usa sempre lo stesso materiale. Ora sta facendo il crescendo. Cosa succede quando c'è il crescendo? Avete sentito quando abbiamo ascoltato il pezzo la prima volta? Si sente il contrabbasso di Jimmy Blanton che riempie il vuoto. E qui dobbiamo fare una piccola deviazione. Chi è Jimmy Blanton? Penso che voi tutti conosciate Jaco Pastorius, vero? Giacomo Pastorius cosa ha fatto? Negli anni 70 ha letteralmente reinventato, se non addirittura inventato, il linguaggio per basso elettrico. Nel 1940 Jimmy Blanton ha fatto la stessa cosa sul contrabbasso. Jimmy Blanton ha inventato il solismo e il fraseggio, ma anche il suono del moderno contrabbasso jazz. Lasciatemi dire, del moderno contrabbasso, punto. La cosa pazzesca è che Jimmy Blanton ha fatto questa cosa tra l'età di 19, 20, 21 anni, perché come vedete è morto di tubercolosi, anche lui, una malattia che ha fatto mietuto molte vittime tra gli anni 20 e 40, anche nel mondo del jazz, a soli 24 anni. Veniva da St. Louis, Ellington, i musicisti di Ellington l'avevano scoperto per caso in una jam session, erano andati a sentirlo in un locale quando erano a St. Louis e hanno detto a Ellington: guarda che c'è un bassista pazzesco. Non passano poche ore che Blanton è dentro l'orchestra di Ellington. Ellington si rende conto che questo ragazzo, 20 anni, nel 39, 19 anni, ha un talento fuori del comune. Una tecnica fuori del comune, un talento fuori del comune, e fa qualcosa che non aveva mai fatto prima: incide dei dischi in cui il leader, Duke Ellington, fa l'accompagnatore zitto zitto, solo col pianoforte, e lascia campo libero al contrabbasso di Blanton. Sono famosi quattro duetti che nel 40 Ellington e Blanton hanno inciso insieme. Dopodiché scrive un sacco di pezzi tra il 1940 e il 41, poi Blanton si ammala, esce dall'orchestra e muore purtroppo a soli 24 anni nel 42, e in tutti i pezzi che Ellington scrive fra il 40 e il 41 c'è spazio per il contrabbasso. Ma nei posti più impensati, ancora oggi ci sembra di un'audacia pazzesca fare pezzi come Jack the Beer, che cominciano con un assolo di contrabbasso. Ma dove sta scritto? Cioè un pezzo per orchestra e comincia con un assolo di contrabbasso. Oppure pezzi come Coco che raggiungono il culmine, e al culmine che succede? Si interrompono per lasciare spazio al contrabbasso. Cioè Ellington si diverte a violare tutte le regole, a inventare successioni di suoni, di assolo, orchestra, eccetera, per lasciare spazio a Blanton nei modi e nei luoghi più impensati. Al culmine di Coco, quando c'è questa, lo sentirete, questa scalata di motivi, lui che fa? Lascia solo lo strumento apparentemente più debole, il contrabbasso. E Blanton lo riempie, non con un fraseggio come fa in altri dischi, rapido, virtuosistico, a volate, ma lo fa suonando con grande energia il 4/4 swing. Tutun, tun, tun, tun, tun. Questo tutun, tun, tun, questo 4/4 swing l'ha inventato Jimmy Blanton. Vi sembrerà una sparata grossa, è così. Nessun bassista suonava elastico, swing, legato con questo suono prima di Jimmy Blanton. Ok? Al culmine c'è Blanton. C'è un dettaglio che vi voglio far notare. Sentite il contrabbasso che suona e l'orchestra che entra con grande energia e risponde, spesso con queste salite. Ora, il batterista jazz, quando ha la partitura sotto gli occhi e sa che l'orchestra rientra per dare un impatto forte, cosa fa? È logico, suona con la cassa, i piatti e spesso anche il rullante sulla prima nota dell'accordo. Pa! E lui suona quel pa, quella colpo, insieme all'orchestra, per dare più spinta all'orchestra. Non Sonny Greer. Sonny Greer aveva un modo di dare gli accenti unico, che io non ho mai più sentito in nessun batterista di big band. Cioè, invece di suonare l'accento con l'orchestra, lo suona prima dell'orchestra. Cioè, se l'orchestra fa pa, lui fa tish, pa, anticipa il colpo, cosa che potrebbe togliere energia al suono dell'orchestra, ma in realtà dà come una sferzata percussiva all'accento che dopo verrà. Ascoltate il dettaglio. Avete sentito? Pishta! Coco è pieno di questi dettagli della batteria, ma tutti i dischi di Ellington di quegli anni sono pieni di questi dettagli. Arriviamo al punto culminante. I sassofoni, il climax. I sassofoni suonano finalmente una melodia lunga. Fateci caso, una melodia vagamente arabeggiante, ci dovremmo chiedere perché. Con gli ottoni che letteralmente, non trovo un verbo migliore, strillano i loro accordi. E il penultimo accordo che fanno è particolarmente aspro, particolarmente dissonante. È il clou del pezzo. Sentite questo accordo. È talmente dissonante questo accordo che da un'analisi l'ho ripreso e suona più o meno così. Questi sono i tromboni. E sopra sassofoni, trombe fanno questo accordo. Non mi bastano le dita, dovrei essere un polipo per fare tutte le note, ma sentite appunto questa. E poi questa cosa qui sopra, che è estremamente. Anzi, in realtà, sì, più o meno lo stesso, estremamente dissonante. Anzi, per la precisione è così. Viene in mente Thelonious Monk, vero? A sentirlo così. E, qui no, Ellington probabilmente non si è messo al piano, ha proprio pensato a questi suoni per ottenere un colore. Qui non è importante decifrare l'armonia, io posso anche suonarlo al piano, no, questo accordo. E il punto è che tra trombe, tromboni, clarinetto, che è questa nota più in cima, quello che viene fuori un colore, a Ellington interessa ottenere non un accordo, non delle note, ma una mescolanza tra la vibrazione delle note che si sfregano fra di loro e un colore, proprio un timbro, proprio nel senso della sinestesia. Ellington era un sinestetico, tra l'altro, era uno che ragionava, sentiva dei suoni e vedeva dei colori. Da ragazzo voleva fare il pittore. In tutte queste sonorità c'è una sensibilità pittorica, per cui quello che conta non è il blues, questo non è un blues. Dove sta il blues qui? Ci sono dei colori, invece, avete sentito, il trombone che fa il wah-wah, gli ottoni aspri, il pianoforte che urta contro le ance, il clarinetto in cima ai quattro sax, questi accordi dissonanti. Sono chiazze di colore, non è un blues nel senso tradizionale. Questo finale non è altro poi che la ripresa dell'introduzione. Non faccio sentire tutto, adesso lo faccio risentire. Vi ricorderete che arrivati alla fine, raggiunto il culmine, si risuona l'intera introduzione e c'è una coda. Succede che mentre i tromboni fanno pa pa pa pa pa pa, ritorna il famoso motivo generatore, parabara, questo qui, che viene prima suonato dal contrabbasso, parabara, du du du du du du du, poi salgono i sax e si arriva all'accordo finale. Magari lo riascoltiamo. Quindi si ottiene un effetto come di canto che si alza, si innalza, usando sempre lo stesso motivo. Dal più basso, dallo strumento più basso, il contrabbasso, è lo stesso Blanton, a cui Ellington evidentemente ha dato istruzioni di suonare questa frase, via via fino a raggiungere il culmine. Questo è Coco. E prima di andare avanti e chiederci che senso ha tutta questa musica, se non era previsto, ma secondo me non sarebbe male riascoltarlo per intero, se siete d'accordo. Dura meno di 3 minuti, ed è un pezzo di una densità impressionante. Ellington ci è arrivato dal nulla, e che significato ha questo brano? In realtà gli studiosi hanno individuato un paio di brani precedenti a questo, in cui ci sono diverse caratteristiche che anticipano Coco. Uno di questi brani... Scusate, devo... è che ho avuto un problema con questo file, quindi... devo fare un'operazione, ecco così. E l'ho aggiustato prima per questo. Ci sono... dicevo, 2 anticipazioni di Coco. Il primo brano si chiama Old King Duji, e che tra l'altro il titolo ci interesserà per capire che cosa vuol dire Coco. Old King Duji, chi era il vecchio re Duji? È nella mitologia afroamericana un re immaginario dell'Africa, un re leggendario. quindi il riferimento è all'Africa. È una registrazione del 38, il pezzo è bellissimo, lo ascoltiamo per intero. E ha, sentirete, un paio di caratteristiche che condivide Old King Duji con Cocò. Il primo è la tonalità minore, non è un blues, ma ci sono i sax con questo motivo e i tromboni che rispondono. Poi c'è un intero passaggio per i tre tromboni, come quello di Cocò all'inizio, e c'è all'inizio il pianoforte che suona come uno strumento africano e anticipa Thelonious Monk nel 1938. Sono piccoli accenni che anticipano Cocò. Arriva, eh? Motivo ripetuto. Pezzo più da ballo questo. Tromboni. Pezzo notevolissimo, poco conosciuto del repertorio di Ellington, molto bello, che ha questi i tre tromboni a blocchi, i sax all'unisono che rispondono agli ottoni, l'atmosfera minore, che in qualche modo sembra anticipare Cocò. Poi c'è Solid Old Man, inciso un anno dopo, anche questo lo sentiamo per intero perché è un pezzo poco conosciuto e molto bello, che di Cocò anticipa per esempio il clima dell'assolo di trombone di John Anton. Il pezzo oscilla fra tonalità maggiore e minore e a un certo punto Nenton si alza e fa un assolo che per atmosfera ricorda quello che poi farà in Cocò. I sax che rispondono come in Cocò. Crolla! Ellington al piano. Sempre percussivo. Ora ci dobbiamo chiedere qualcosa sulle origini e il significato di questo titolo e di questo pezzo e ci avviamo alla conclusione. Cosa vuol dire Coco? E magari lo vediamo tra poco. E soprattutto qual è il significato di questo pezzo che comincia con i timpani, che c'ha questo trombone così aspro, che c'ha il botta e risposta, che è un blues in minore. Qual è, che è così aspro come suono? Qual è il senso di questo pezzo? Beh, probabilmente, seguendo gli indizi lasciati da Ellington, che era uno che non si sbottonava molto a raccontare le ragioni dei suoi pezzi, beh, probabilmente questo pezzo doveva far parte di un progetto più grande che Ellington stava elaborando dalla fine degli anni 30. Ora qui dobbiamo abbandonare il mondo del compositore, dobbiamo entrare nel mondo dell'intellettuale, di una persona che, profondamente immersa nella sua cultura, quella degli afroamericani, si rende conto di essere un portavoce di quella cultura, di voler raccontare la ricchezza di quella cultura per il mondo occidentale, di come il mondo degli afroamericani, di essere portati come schiavi dall'Africa in America, abbiano cambiato il mondo dei loro padroni. Gli schiavizzanti hanno sottomesso gli schiavi, ma la cultura degli schiavi ha cambiato la cultura dei loro padroni. Come? Ellington ha provato a raccontarlo, prima ha pensato a un'opera lirica, poi ha pensato a un poema sinfonico, come quelli di Strauss. Che fosse un'opera lirica o un poema sinfonico, noi sappiamo che il primo titolo di questo lavoro doveva essere Bula, che è una parola africana, dice Ellington, che si riferisce ai musicisti. Noi sappiamo che Bula in realtà si riferisce anche a degli strumenti. È una parola bantu, Bula, che più tardi è diventata la suite Black, Brown and Beige, una specie di poema sinfonico di 50 minuti in cui Ellington vuole raccontare la storia degli afroamericani. Inizialmente aveva pensato fin dall'Africa, Bula. Poi ha, diciamo, ridotto le sue ambizioni e racconta la storia degli afroamericani in Black, Brown and Beige nel corso della storia americana. Black, quando siamo schiavi, Brown, dopo l'emancipazione, 1865, Beige, l'integrazione nella cultura americana, cambiandola da dentro. Questo piano Ellington ce l'aveva molto chiaro, tant'è che lui ha scritto, questo è di pugno di Ellington, una specie di programma in cui prima Bula, che poi è diventata Black, Brown and Beige, dovevano raccontare la storia di un personaggio, appunto Bula, un musicista che dall'Africa arriva in America e vive le vicissitudini, un musicista simbolico, vive le vicissitudini della musica. Sapete che poi Ellington ha rifatto questa cosa nel 1956 in uno spettacolo che si chiamava, perché è uno spettacolo che poi è diventato un disco, che si chiamava A Drum is a Woman, in cui lì la protagonista è una donna tamburo che dall'Africa arriva ai Caraibi, dai Caraibi negli Stati Uniti, e quindi assistiamo alla trasformazione della musica africana in musica caraibica e poi in jazz e quindi al cambiamento della musica moderna. Quindi Coco doveva essere parte del racconto di Bula, qualcosa che forse aveva a che fare con l'Africa, o qualcosa che forse aveva a che fare con gli schiavi africani nelle Americhe. Anzi, forse Coco doveva raccontare, secondo degli indizi che ci ha lasciato Ellington, un momento fondamentale della preservazione della cultura africana in America, le danze che gli schiavi facevano in una piazza di New Orleans agli inizi dell'Ottocento, una piazza che si chiamava Congo Square, oggi si chiama Louis Armstrong Square, ed era una piazza nella quale tutte le domeniche gli schiavi si ritrovavano. Questo è proprio un acquerello fatto da un viaggiatore all'inizio dell'Ottocento delle danze di Congo Square. Qui ce n'è solo uno spicchio. La piazza era molto grande, è molto grande, c'erano centinaia di schiavi che ballavano, cantavano e si accompagnavano con gli strumenti più diversi, da strumenti a corde come banjo, per esempio, a tanti tamburi. Tanti tamburi, ecco i timpani che abbiamo sentito all'inizio di Congo Square, all'inizio, scusate, di Coco. Forse quei timpani sono l'evocazione più che di un'Africa, sono, non forse, quasi sicuramente, sono l'evocazione delle percussioni e dei tamburi delle danze di Congo Square, dove c'è, come nel gospel, un solista che canta o danza e il coro, il gruppo che risponde, come il trombone di Nenton e l'orchestra che gli risponde. Di fatto Coco è una sorta di, come l'estratto di un'opera lirica incompiuta o l'estratto di un'opera teatrale incompiuta. È la scena di Congo Square, il momento in cui, nei primi dell'Ottocento, gli schiavi africani a New Orleans si ritrovano e danzano e cantano le loro danze e canti ancestrali, unendo culture ed etnie e lingue di questi schiavi molto diverse in un'unica grande festa che afferma la propria cultura. Questo è probabilmente il significato. Notate tra l'altro che c'è scritto piccolissimo sotto, c'è scritto Voodoo Dance in Congo Square, è datato 1885, in realtà l'85 è l'anno in cui fu fatto questo acquerello, ma nell'85 non c'erano più le danze a Congo Square, 1885, ma voodoo perché il voodoo era arrivato da Haiti attraverso una strada un po' complicata adesso da spiegare, e quindi c'è comunque un elemento religioso e perfino di società segreta in questi, e questa parola è chiave, società segreta, per capire Coco, in queste danze. Quindi, Coco è evidentemente legato a un'idea di Africa. Abbiamo visto che Old King Duji, che era un mitico re africano, è un brano che in qualche modo anticipa l'Africa, anticipa Coco. D'altra parte, c'è una scoperta, non una scoperta, io lavorando su questo pezzo nei giorni scorsi ho scoperto una cosa che non ho scoperto ieri, sotto il naso di tutti, e nessuno se ne è accorto, nessuno almeno l'ha mai discusso. Ne ho parlato con l'amico Marcello Piras pochi giorni fa e lui ha fatto un salto dalla sedia come me, perché il primo titolo di Coco era Kalima. Come lo sappiamo? Cosa vuol dire Kalima? Prima di dire cosa vuol dire Kalima, se noi guardiamo, si trova su internet, non è che è una cosa che sono andato a cercare in modo così strano. Se andate a guardare, questa è praticamente il registro delle sedute di registrazione per la Victor. Cioè quello che hanno scritto i tecnici quando hanno registrato i dischi di Ellington quel 7 marzo. E come vedete qui sotto, vedete proprio alla fine, c'è scritto Kalima e a fianco, a mano, qualcuno ha aggiunto Coco. Lo vedete? Kalima e a fianco Coco. È cerchiato, come dire, no, non è più Kalima, è diventato Coco. Cos'è Kalima? Kalima è una parola araba che vuol dire la parola di Dio. Il verbo, per gli arabi, per i musulmani per la precisione. Per i musulmani Kalima vuol dire la parola di Dio. Allora, stiamo parlando di un pezzo il cui titolo originale, secondo Ellington, è La parola di Dio per i musulmani. Ellington era musulmano? No. Ellington era credente, diciamo così. Era un po' come, come Coltrane, credente ma non in una religione specifica. Però sappiamo che Coco racconta degli africani in America e il titolo originale era una parola musulmana. Ellington ci sta dicendo che ci sta raccontando, e forse questo spiega la melodia fiorita dell'ultimo chorus, dell'ultimo ritornello, ci sta dicendo che al centro della cultura dei neri americani c'è una componente anche musulmana, e questo è storicamente esatto. La cultura musulmana è al centro della cultura afroamericana, fin dall'epoca degli schiavi, che tra l'altro musicalmente ha avuto una ricaduta importantissima, il blues, nell'uso degli strumenti a corda e nel modo di cantare, è di origine senegalese, quindi in parte musulmana, e questa componente musulmana evidentemente era quella che all'interno di Bula Ellington voleva raccontare. Solo che a un certo, e questo tenetevi forte, cioè è una cosa pazzesca se ci pensate. Stiamo parlando di un intellettuale nero americano che sta affermando nel 40 che la cultura musulmana è centrale nella sopravvivenza del mondo afroamericano, negli Stati Uniti. Poi però qualcuno ha cerchiato Kalima e ha scritto Co-co, Coco. Chi è Coco? Cos'è Coco? E perché è stato cambiato? Qui posso solo fare delle ipotesi. Coco è un nome associato variamente nei dizionari a re africani mitici, come Old King Duji. Quindi Coco è come dire l'Africa in modo generico. Questa cosa era nota agli americani di quegli anni. Alla fine degli anni 20, primi anni 30, girava un personaggio, giravano i cartoon di Betty Boop, ve li ricordate? Il personaggio, lo spilungone alto, che fa sempre un sacco di pasticci, si chiama Coco. Quindi c'è un riferimento a quei cartoon, probabilmente a uno di quei cartoon ambientato in Africa. In altre parole, Ellington ha tolto la parola più chiara e importante e ne ha messa una meno forte. Sta facendo come nel voodoo, sta facendo un'operazione di segretezza. Ci ha nascosti, nascosto a noi il significato profondo del pezzo. Kalima, la parola di Dio, con invece una parola più generica, è ambigua, è vaga, è giocosa. Tra l'altro, guardate che il riferimento al mondo musulmano è per un americano nero degli anni 40, importante anche da un altro punto di vista. Ellington ci sta dicendo che gli afroamericani non vengono da culture pagane e politeistiche. Vengono da culture monoteistiche, come dire, abbiamo un passato nobile, la cultura monoteistica musulmana in questo caso, Kalima. Questo è, secondo me, il nocciolo di questo capolavoro, il senso profondo di questo pezzo che ha una sonorità totalmente non occidentale, che si svolge come una scena dei nostri occhi, che cresce attraverso un fitto uso dei motivi. Vi ricordate il motivo generatore del trombone, che poi diventa via via sempre più denso, sempre più incalzante, con effetti a piramide, lasciando spazio ai solisti? Con il danzatore, cantore centrale, John Anton, con il coro che gli risponde, con il ballerino, se volete, Jimmy Blanton, che danza la sua danza solistica nel culmine del coro, e con il grande canto arabeggiante dei sax alla fine, fino ad arrivare a questa sorta di preghiera finale, che sale a raggiungere il culmine. Il tutto in una dimensione fonica e formale, il blues è fonica, quegli accordi dissonanti e i growl e i wah-wah che non sono occidentali. E vi ricordate quell'andamento quasi da marcia? Perché questo non è lo swing da ballo delle sale da ballo, è qualcosa di più arcaico che rievoca dei riti profondi nei quali si sono conservati, preservati e rinforzati valori non occidentali, valori africani, afroamericani, che poi sono andati a cambiare dal di dentro la cultura americana. E tutto questo è un'operazione coltissima di un compositore che si è scritto ogni nota e ha lavorato come un Beethoven, come un Mahler, come un Brahms, senza darlo a vedere, perché poi Kalima lui l'ha cancellato. E quindi un'operazione di profonda cultura e valore musicale e culturale, che sta parlando anche di noi che balliamo al ritmo di questa musica. Vorrei concludere, davanti a delle immagini dell'orchestra di Ellington, con due versioni dal vivo, e chiudiamo, per sentire come l'orchestra suonava questi pezzi dal vivo. L'orchestra ha tenuto Coco in repertorio per qualche mese. Questo era normale all'epoca. Il pezzo magari poteva avere un relativo successo, e comunque poi Ellington sfornava pezzi nuovi e teneva in repertorio solo i grandissimi successi. Quindi l'ha suonata per un po', poi non l'ha più suonata. Vi faccio sentire due versioni, sono registrate dal vivo nel 40, quindi la qualità non è un granché. Però le possiamo confrontare con la versione che abbiamo sentito in studio della Victor. La prima che ascoltiamo viene da una trasmissione radiofonica a New York, American Dances, 12 giugno 1940. Sentirete il presentatore che presenta il pezzo. Le due versioni che stiamo per ascoltare hanno una caratteristica in comune rispetto a quello che avete sentito prima. Sono molto più veloci. Il motivo per cui sono molto più veloci è che a forza di suonare questi pezzi, questo succede sempre nel jazz, questi pezzi i musicisti poi tendono, per evitare la routine, per dargli un po' più di vita, per non suonare sempre la stessa roba, tendono ad accelerarli. Qualcuno si ricorderà, per esempio, Miles Davis, che negli anni 60 suonava, che so, walking a velocità pazzesche, quando invece era un blues a tempo medio. Allora, questa è la prima versione. Today's program will consist of Ellington melody and rhythm favorites which are meeting with current approval here in America. And first is that bright bit of tuneful rhythm, Coco. Quasi identico, lo so, non è veramente improvvisato. Was Coco, played by Duke Ellington and his orchestra, the first number on the America Dances program. Tra l'altro la velocità fa guadagnare al pezzo una specie di forza barbarica, quasi stravinskiana verrebbe da dire, o bartocchiana, di grande energia, anche se certi dettagli si perdono. L'altra versione, per concludere, è stata registrata nel novembre del 40 in un famoso concerto, famoso, cioè era una serata come un'altra, a Fargo, nel North Dakota, Una città che poi è diventata famosa per soli due motivi: questo concerto di Ellington e il film dei fratelli Coen degli anni 80, 90, bellissimo, Fargo, per come se dicessi Kanikati, un posto qualsiasi, Fargo, North Dakota. Chi ha visto il film dei Coen se ne rende conto. Fargo, prima del film dei Coen, era famosa, e mi chiedo se i Coen non ci abbiano pensato, perché altrimenti veramente dire Kanikati. Era famosa perché un collezionista registrò un'intera serata della mitica band di Ellington del 40, quella con Jimmy Blanton, Ben Webster, eccetera, eccetera. E i dischi usciti dagli anni 70 in poi di queste registrazioni fatte da un appassionato sotto il palco sono tra i documenti più preziosi che abbiamo dell'orchestra di Ellington, perché ci mostrano quell'orchestra in un'intera serata al lavoro. Anche qui gli equilibri dei suoni non sono molto felici, perché chiaramente stiamo parlando di qualcosa di molto primitivo come tecnologia di registrazione. Il trombone si sente piano, poi forte, il basso si sente, non si sente, il clarinetto si sente lontano, non importa. Sentiamo come suonava in una sala da ballo, mentre la gente ballava, di Fargo, North Dakota, il 7 novembre del 40, chissà, fuori ci sarà stata la neve che si vede anche nel film dei Coen, e questi suonavano così. Si avvicina al microfono. Immaginatevi di essere a Fargo il 7 novembre del 40 con la neve fuori nel North Dakota, in un posto sperduto nel nord degli Stati Uniti, fuori il gelo, in questa sala da ballo, che Fargo non avrà avuto una sala da ballo grande, no? Una sala da ballo per qualche centinaio di persone, probabilmente i neri da una parte, i bianchi da un'altra, i pochi neri che ci saranno stati nel North Dakota, ce ne saranno stati veramente pochissimi, e comunque, o forse non ce n'erano affatto, e i bianchi dall'altro, perché la separazione razziale voleva che non si mescolassero. Sul palco una band che suona, la gente che balla, è arrivato il jazz a Fargo, tutti si divertono e nessuno che dice, capisca o che lo dica, come Ellington avrebbe voluto fare, che stanno ballando al suono della parola di Dio e che il brano che stanno danzando è Kalima, ci racconta della profondità della cultura degli afroamericani che però non possono rivelare ciò che sono veramente, perché sono oppressi nella loro società, oppressi nella loro cultura, considerati dei burloni, degli uomini di spettacolo, gente che scrive musica semplice, apparentemente, per far ballare le persone. E invece qui si tocca una verità profonda della storia. Questa era l'ultima delle nostre lezioni di jazz. Io vi ringrazio e spero di vedervi l'anno prossimo. Grazie.